Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in realtà sono due i temi oggi e tutti e due italiani. Da un lato le banche, nel doppio senso in questo caso dell'indagine, quindi dell'inchiesta ufficialmente aperta a questo punto dalla Procura di Arezzo sull'ex Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria. Quello che il 30 giugno 2014 votò quasi all'unanimità la liquidazione di 1.200.000 euro dell'allora direttore generale Luca Bronchi, attualmente sotto processo per ostacolo alla vigilanza, e chiaramente l'inchiesta riguarda l'allora presidente Lorenzo Rosi, vicepresidente Alfredo Berni e Pierluigi Boschi, padre appunto del ministro Mariena, in tutto 14 consiglieri su 15. L'unico astenuto, va detto, è stato il consigliere Giovanni Grazzini. L'altro fronte, sempre bancario, riguarda, e non c'entra niente la magistratura in questo senso, riguarda invece l'operazione popolare di Milano Banco Popolare, perché il mercato ci scommette di nuovo. Il Banco Popolare guadagna il 4,50%, la Popolare di Milano il 3%. Dopo la frenata nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato a lungo, per i rilievi mossi dalla Banca Centrale Europea sulla patrimonializzazione, soprattutto rispetto alle sofferenze delle due banche, in particolare del Banco Popolare, e poi la governance con tutti questi consiglieri e l'autonomia che vorrebbe avere la Popolare di Milano, perlomeno nel primo periodo. Adesso, dopo anche le parole di venerdì scorso del ministro Padoan, che ha detto di apprezzare l'operazione dal quale nascerà una banca più forte, il mercato è convinto che comunque l'operazione si farà, e questo è il primo grande tema. Il secondo grande tema riguarda invece Telecom Italia. Allora, ormai insomma, è arcinoto quello che è successo nel fine settimana. Dopo varie voci si è dimesso, dopo voci che ipotizzavano le dimissioni, si è ufficialmente dimesso l'amministratore legato Marco Patuano. Bisogna capire intanto chi prenderà il suo posto, ma non è questa la cosa più importante. È chiaro che circola la voce con forza che il candidato più probabile sia Flavio Cattaneo, attualmente amministratore delegato di NTV Italia, di Italo, però c'è anche il nome del numero uno di Deutsche Telekom, René Obermann, oppure di altri manager italiani. Ma il punto, ripeto, non è questo. Il punto è sostanzialmente il fatto che per quello che riguarda Telecom Italia, l'ipotesi che potrebbe emergere è di una sostanzialmente Telecom sempre più francesi, in cui Bolloré, quindi Vivendi, decidono le sorti e il futuro anche industriale del gruppo telefonico italiano, e varie critiche sul governo che avrebbe tollerato questa operazione. Ne parleremo, perché la vicenda è molto molto delicata. Ricordo che Telecom è un gruppo privato, in questo momento guadagna il 3,40%, però a nessuno sfugge, è inutile girarci attorno, che per quanto sia un gruppo privato, le telecomunicazioni sono, non dico come settore energetico, ma quasi un elemento strategico in un paese. E quindi è inutile, ripeto, fare le verginelle o le mezze vergini, come dicono in francese. Bolloré è il principale socio del gruppo Vivendi, che è il primo azionista di Telecom Italia, a questo punto con il 24,9%, al 25% scatterebbe l'obbligo di offerta pubblica di acquisto. Berlusconi oggi ha smentito che vi possano essere le pay TV di Mediaset come interesse di Vivendi. Io sono amico di Bolloré, ha detto Berlusconi, poi lo ascolteremo. Vivendi è molto interessato all'Italia, ha manifestato l'interesse per cose che facciamo, non per Mediaset ma sui prodotti per la TV, ma insomma ha detto no, ci può essere una collaborazione ma no una vendita a Bolloré. Però insomma il fronte è, oltre che di carattere economico finanziario, anche di carattere politico. Per quello che riguarda complessivamente gli indici delle borse, più 0,30% Milano, meno 1% Parigi, devo dire che anche Francoforte perde lo 0,20% e Londra lo 0,25%, l'America è invariata. Questa differenza di Milano si giustifica appunto sul fronte banche, dicevamo già della Popolare, della Pop Milano, ma c'è anche Monte dei Paschi che guadagna il 3,80%, UbiBank al 2,30%, Intesa San Paolo l'1% come Unicredit, Telecom Italia appunto più 3,20% e anche Xor, la controllante della famiglia Fiat, della famiglia Agnelli sulla Fiat, più 4%. Xor. Più modesti rialzi di altri titoli: A2A più 0,70, Pop Emilia Romagna più 0,60, Iux mezzo punto percentuale come Snam. In calo invece Saipem meno 3,30%, ST Microelectronics meno 2,60%, Generali meno 1,30%, Anima meno 1,15%, Tenaris meno 0,80 come Ferrari, Fiat Chrysler meno 0,70 e poi altri titoli che perdono lo 0,5%. Devo dire che il petrolio oggi non aiuta il settore petrolifero, Eni è invariata, è sempre a livelli più alti da 3 mesi a questa parte, ma non è cresciuto ulteriormente, anche oscilla tra i 39,70 e 40 dollari al barile. Per quello che riguarda il numero per i vostri sms, come sempre 349-238-6666, anche per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, sul fronte dell'economia internazionale c'è un allarme di nuovo degli industriali britannici in caso di Brexit, di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Hanno fatto un calcolo che la Gran Bretagna perderebbe 100 miliardi di sterline e 1 milione di posti di lavoro. È un'analisi commissionata dalla Confindustria britannica a PricewaterhouseCoopers, proprio in vista del referendum del 23 giugno. Gli euroscettici dicono che il rapporto è eccessivamente allarmista, però è ripreso molto dai media britannici. Il PIL britannico conoscerebbe un calo del 5% entro il 2020, ecco perché si parla di un costo totale di 100 miliardi di sterline, e con un impatto sulle famiglie fino a 3.600 euro e rischi occupazionali per 950.000 euro. E poi aggiunge: i mancati contributi alla Unione Europea. Faccio notare che la Gran Bretagna, a differenza dell'Italia, paga molto meno il famoso accordo, lo status speciale raggiunto da Thatcher, di quanto paghi l'Italia rispetto a quello che ottiene. Però i benefici di non dover più versare soldi all'Unione Europea sarebbero ampiamente superati dai danni in negativo, dall'impatto su commercio e investimenti. Interessante anche il rapporto che arriva dalla Bundesbank, dalla banca centrale tedesca, in cui il patrimonio, si fa notare come il patrimonio netto dei tedeschi sia cresciuto, ma la ricchezza anche in Germania stia assumendo sempre più l'aspetto di una forbice, nel senso che quindi l'indice di Gini famoso va a aumentare. Perché? Perché è cresciuto in maniera completamente disuguale. Il patrimonio netto, se fai la media, è passato da 195.000 euro nel 2010 a 214.000 euro, ma il 10% più ricco ha il 60% del patrimonio, mentre il 10% più povero è solo il 2,5%, e tutti e due questi estremi sono aumentati come rispetto al 2010, che è l'ultimo anno dello studio. Poi la Banca Centrale Europea continua a sollecitare la Germania a investire, dice: un aumento degli investimenti pubblici pari all'1% del PIL in un periodo di 5 anni avrebbe effetti positivi nel breve termine, con ricadute su tutti gli altri paesi, anche visto lo scenario di bassa inflazione. Ma, scrive sempre la Banca Centrale Europea, nel frattempo gli investimenti privati in Europa sono calati e durante e dopo la crisi, e non si sono ancora ripresi, alla faccia del piano Juncker, che, come abbiamo detto molte volte, è un piano a nostro avviso abbastanza fatto con la fuffa. Ancora, per quello che riguarda il Telecom Italia, vedo che alcuni dicono: da un lato attenzione, Telecom è privata e quindi e Bolloré le azioni le ha pagate, verissimo, dall'altro alcuni dicono i francesi ci stanno comprando non solo il lusso, non solo i mari, anche Telecom Italia. Ne parleremo. Guardate, non esiste il bianco e il nero necessariamente sempre nella vita, perché in questo caso da un lato è totalmente vero che Telecom è privata e quindi se uno vuole scalarla, come ha fatto Bolloré, ha tutto il diritto di farlo. Dall'altro però non facciamo nemmeno le demi vierge, cioè le mezze vergini. Dire che comprarsi, diciamo, un marchio del lusso o un marchio dell'agroalimentare sia uguale a comprarsi il principale operatore di telecomunicazioni, sapendo cosa c'è dentro il mondo delle telecomunicazioni e quanto strategico sia per un paese, è fare le mezze vergini e non capire come funziona la realtà. Non tutti i settori sono uguali, questo va detto. Il settore della difesa sono settori che tutti i governi proteggono, il settore dell'energia sono settori che tutti i governi proteggono, e anche il settore delle telecomunicazioni. Io avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se avessimo fatto un'operazione noi su France Telecom. Ecco. Allora, vedo ancora. Abbiate un po' di pazienza. Poi, per quello che riguarda la Fittopoli romana, insomma, questi sono tutti temi che tratteremo ovviamente nella poco invidiabile classifica del venerdì. Faccio notare che stanno emergendo dal rapporto dell'analisi e della mappatura disposta dal commissario straordinario a Roma, Francesco Paolo Tronca, delle cose incredibili, cioè immobili fantasma, occupazioni abusive, subentri di fatto, morosità, affitti irrisori, tra l'altro inquilini residenti altrove o addirittura deceduti, ma insomma 1,80 euro per abitare a due passi dalla stazione Termini, 5 euro per vivere vicino a Campo dei Fiori, 32 euro per una casa con vista Colosseo, che a quel punto quasi quasi riabilitiamo Scaiola con la sua, che se l'era fatta pagare, ma a sua insaputa, ma costava almeno. E ancora, questo è un incrocio di dati su 290 immobili del patrimonio disponibile, 21 case e 9 uffici fantasma. Praticamente il comune ci perde 4 milioni e mezzo di euro dai morosi nel centro storico di mancati guadagni. E Tronca comunque ha detto di avere tutti i dati sulle morosità dei 574 immobili nel centro storico e invita il prossimo sindaco a usare il metodo da lui applicato. Allora, ancora due notizie non belle purtroppo, nel senso che questa mattina è stata formalizzata la procedura di licenziamento collettivo per quasi 3.000 lavoratori, sono 2.988 del call center Almaviva, 1.670 sono a Palermo, 920 a Roma e 400 a Napoli. Praticamente l'azienda ha illustrato i numeri relativi al margine netto di produzione, rapporto che per Palermo certifica un dato del 9,6% contro un obiettivo del 21%, ma i sindacati contestano chiaramente il piano, mentre il piano di riorganizzazione di Almaviva è diretto al necessario obiettivo di garantire condizioni di equilibrio industriale e di avviare un percorso di rilancio, sostiene una nota del gruppo che è attivo nel call center, ma tra l'altro secondo l'azienda il fatto di poter dover operare così deriva anche dal fatto di potersi avvalere dei processi di delocalizzazione delle gare al massimo ribasso. Un'ultima notizia riguarda invece le informazioni che gli operatori finanziari devono comunicare al fisco entro il 31 marzo. C'è di tutto, perfino il numero di accessi alle cassette di sicurezza, un flusso telematico che porterà nei database dell'amministrazione finanziaria oltre 500 milioni di dati su conti correnti e i rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti italiani. Si va dalla giacenza media al saldo contabile di inizio e fine anno, dalle ricariche sulle carte prepagate agli acquisti di titoli effettuati nell'ultimo anno. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. con Salvatore Padula. Entro fine mese le banche, le poste e gli altri operatori finanziari dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati 2015 sui conti correnti, sui depositi, sugli investimenti di ogni cittadino titolare di un rapporto. Il fisco da quel momento avrà a disposizione un archivio immenso con i saldi dei conti, i movimenti, le giacenze medie, l'uso delle carte di credito, persino il numero di accessi individuali alla propria cassetta di sicurezza per chi ne ha una. Questa enorme mole di informazione, si stima siano oltre 500 milioni di dati solo per lo scorso anno, andrà ad arricchire un database dei rapporti finanziari che sarà utilizzato dal fisco per individuare i potenziali evasori. Bene, naturalmente il primo punto è capire come l'amministrazione, cioè l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, useranno questi dati. Da quanto sappiamo, tutte queste informazioni non potranno essere utilizzate in modo diretto per contestare un'evasione, serviranno invece per creare liste di soggetti a rischio, cioè soggetti che in presenza di determinate anomalie potranno essere sottoposti a ulteriori controlli, e solo questi ulteriori controlli faranno eventualmente scattare l'accertamento di un'evasione fiscale. C'è poi un secondo punto, ovvero le garanzie per i contribuenti in termini di rispetto della privacy. Si tratta ovviamente di dati molto sensibili. Beh, allora chi avrà accesso a queste informazioni? Come sarà garantita la loro tutela? Come si capisce, il tema è molto delicato e da parte del fisco serve la massima trasparenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo col primo tema e oggi parliamo di banche, iniziamo dal fronte giudiziario, Banca Etruria. Allora, l'inchiesta, di mezzo c'è tutto quanto abbiamo già raccontato, non c'è qualcosa di molto molto nuovo. Di nuovo c'è che ufficialmente la Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta su tutti i membri, anzi 14 su 15 dell'ex Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria. Devo dire che l'apertura, o meglio la motivazione più forte che abbiamo visto, riguarda proprio la liquidazione di Luca Bronchi. Chiedo conferma a chi segue per il Sole 24 Ore l'intera vicenda Etruria, ossia Sara Monaci. Buonasera Sara. Sì, buonasera. Dunque, questo però è il quinto filone di indagine. Sì, perché abbiamo perso il conto, mi sembra. Perché quinto, c'è un primo filone. Ostacolo alla vigilanza. Ostacolo alla vigilanza. Emissioni, fatture false. Aspetta. Ostacolo alla vigilanza e quindi imputati l'ex presidente Fornasari, sì, l'ex direttore generale Luca Bronchi, il dirigente Davide Canestri, che se ho ben visto la prima udienza, la prossima udienza vi sarà il 13 aprile. Sì. E lì non c'è il papà del ministro Boschi. E lì non c'è, perché si parla del primo CDA, ancora non era lì presente. Poi c'è il secondo filone sulle false fatturazioni in attesa di richieste di giudizio, e lì chi potrebbe entrare? Qui stiamo parlando sempre dei primi filoni di indagine, sostanzialmente sono gli stessi più due manager di una società che si chiama Metorios. Ancora, poi c'è il terzo filone, che è ancora in fase di accertamenti, dove sono indagati sia Rosi di nuovo che Nataloni, il consigliere Luciano Nataloni, per non avere dichiarato conflitto di interessi, nel senso che loro avevano una concessione di finanziamenti, no? Sì, esattamente, avevano questa concessione che si sono sostanzialmente autodati senza passare per quegli step necessari quando gli stessi amministratori chiedono alla banca un prestito per loro medesimi. Poi quarto filone, truffa a carico degli ex risparmiatori, che è quello che interessa probabilmente di più gli ascoltatori, ma è quello delle obbligazioni subordinate, esatto, per capirsi. Delle obbligazioni, sì, subordinate vendute come se fossero prodotti sicuri. Non, sì, spiegando. Qui ancora non ci sono indagati, ma ci sono degli accertamenti fatti sulle varie filiali, perché evidentemente la truffa è qualcosa che è stata commessa da qualcuno nei confronti di qualcun altro. È la famosa indagine preliminare che poi servirà eventualmente a dare risposta al quel procedimento nazionale su chi merita o non merita un risarcimento. Chiaramente chi ha avuto un'obbligazione subordinata senza consapevolezza, con profili di competenza alterati, si sta, per esempio, il vedendo... ragionamento che si faceva sugli anziani, che difficilmente vanno a scommettere su un prodotto del genere. Esatto. E cioè, lì il problema, esempio, sarà distinguere tra chi ha subito truffa e, sì, chi no, perché adesso non possiamo nemmeno immaginare che proprio tutti no, fossero ignari delle condizioni in cui versava, e sarebbe ingiusto verso chi era veramente, verso chi è stato veramente truffato. E questo è il quarto filone. E poi c'è il quinto filone, quello che chiama in casa, allora, in causa il papà del ministro Boschi. Dico subito che come reazioni il vice segretario del PD, parlando con il giornalista Montecitorio, mi riferisco a Lorenzo Guerrini, ha detto un'eventuale mozione di sfiducia contro il ministro Boschi da parte del Movimento 5 Stelle non ha senso, e se la presenteranno la respingeremo. Dico anche che invece il presidente della Regione Puglia e segretario uscente del PD Puglia, Emiliano, ha detto: ma è una questione che deve decidere solo il ministro Boschi nella sua coscienza. Penso che il ministro troverà la soluzione migliore, nessuno può dare un consiglio in materia. Però non dice che sarebbe sbagliato, e sappiamo che invece i 5 Stelle stanno pensando seriamente a una mozione di sfiducia. Questo è il fronte politico. Veniamo però all'accusa. E quindi qui entrano in ballo, se ho ben capito, tutto Sara, il CDA. Tutto il CDA, l'ultimo, tranne CDA. Uno, però no, bisogna dirlo con precisione che c'è il consigliere Giovanni Grazzini che ne è escluso, sì, 14 su 15, sì, per la liquidazione a Bronchi e le consulenze. Sara. Allora, diciamo questo, che l'inchiesta, questo filone è il più importante, il più grave, perché si sta parlando di bancarotta fraudolenta. Dopo la dichiarazione di insolvenza, ecco che la procura ha aperto l'inchiesta per bancarotta fraudolenta, che è uno dei reati societari più gravi del nostro codice penale. Sì. Quindi la procura dovrà valutare gli ultimi 10 anni, i comportamenti che hanno portato alla distorsione di risorse, al cattivo utilizzo. Stiamo andando però per passaggi, perché è un'inchiesta molto ampia, quindi in questo momento si sta valutando i comportamenti dell'ultimo CDA, quello che è durato in carica meno di un anno, presieduto da Rosi, con vicepresidente senza delega, diciamolo, Pierluigi Boschi, il padre della ministra, sì, Boschi. Però se ricordo bene, Boschi, padre, era anche membro del consiglio di amministrazione precedente, sì, per cui se vanno indietro a guardare 10 anni si complica, a mio avviso, la certamente sua posizione. Perché al non momento... è che uno potrebbe dire: bah, io ho fatto il vicepresidente senza deleghe nell'ultimo anno, e vabbè, però se tu prima eri nel consiglio di amministrazione eri già stato multato dalla Banca d'Italia, per è stato multato 2 volte, anche l'ultima sanzione, anche l'ultima, dico, precedentemente, perché va spiegata bene questa cosa, a mio avviso, perché viene multata dalla Banca d'Italia Boschi in quanto membro del CDA. Ciò nonostante rientra in Banca Etruria come vicepresidente. Non esce mai realmente. Non esce, sì. Cioè, quindi neanche a dire, beh, non c'era un'ombra. C'era un'ombra e anche una macchia, perché una multa da 130.000 euro data alla Banca d'Italia, se devi gestire una banca o fare il vicepresidente di una banca, non è il massimo. E lui l'aveva già beccata come membro del CDA. Beh, a onor del vero tutti quanti. Diciamo che lì c'è stata sempre una soluzione, senza soluzione di continuità. La multa comunque è stata ripristinata, proprio perché poi gli amministratori sono gli stessi e di fatto i comportamenti sono proseguiti. Cioè la mancanza di gestione oculata, questo contesta Banca Italia, non entra nel penale. Però bisogna dire che le ispezioni di Banca Italia poi sono la parte più consistente di ciò che la procura poi sta valutando. Quindi diciamo non c'è veramente una discontinuità tra ciò che sta analizzando Banca Italia e ciò che sta analizzando la procura. E poi ci sono queste 15 milioni di euro di consulenze. Sì, sono 15 milioni di euro. Al momento, ecco, si sta valutando. In un momento in cui la banca era già praticamente fallita. 17 per la verità, se non ricordo male, sono 17 milioni di consulenze. E poi ci sono con l'accusa di aver dato consulenze per diciamo per operazioni, per lavori che potevano essere tranquillamente fatti dentro la banca. Sì, non solo, ma anche su cose che sembrano, che proprio in un momento di crisi sembravano anche superflue, come per esempio consulenze di tipo culturale per l'organizzazione di mostre, con società che riconducibili ad amici di ex amministratori. Quindi evidentemente si sta dicendo che si stava elargendo favori senza troppo guardare per le spese, per il sottile. Allora, in questo momento sono stati iscritti al registro degli indagati questi membri del CDA, tra cui Boschi, ma evidentemente è soltanto la prima parte, perché poi si potrebbe andare ancora indietro, anzi sicuramente si farà andare indietro nel precedente CDA, e io immagino si estenderanno anche le iscrizioni. Al momento stiamo ai fatti, si sta parlando in particolare delle spese più recenti, quindi quelle più controllabili per l'iscrizione al registro degli indagati. In particolare si parla proprio della buona uscita da 1.200.000 dell'ex direttore. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, vorrei capire intanto una cosa, perché ovviamente la prima cosa che balza agli occhi quando tu vedi contestare dalla magistratura la buona uscita, e non posso non pensare alla Popolare di Vicenza, nel senso che pure lì abbiamo scoperto che a Zonina, al vecchio CDA, sono stati dati milioni di euro di buona uscita. Adesso vado a riprendermi i dati. Vorrei capire se questo poi sia estendibile, cioè una volta che la magistratura stabilisce che tu, perché loro hanno impugnato e hanno chiesto anche di bloccare la somma, di congelare la somma, se ho ben capito. Ancora no, infatti questo, attenzione, che è un argomento molto delicato, perché si tratta di tutte di attività che potrebbero fare. Chiaramente la magistratura forse in questa fase preferisce che non si vada a dire troppo prima ad una persona che potrebbe seguire un sequestro. Se no, i soldi prendono, esattamente, prendono, però è evidente che si parla di possibilità di sequestri appunto conservativi, proprio per mettere da parte quello che viene definito un maltorto, diciamo così. Ecco, vorrei capire se questo farà, tra virgolette, pur non essendo noi in un diritto common law, ma se farà storia, perché ci sono tanti altri filoni di altre inchieste che riguardano altre banche. Dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666, beh, la giornata oggi per vari motivi non è delle più allegre, però insomma, è meglio che taccia su questo. Devo dire che almeno un po' di ironia la fa un ascoltatore dicendo: beh, Banca Etruria mi sembra come la casa della signora Pina Fantozzi, che quando tradiva Ugo col fornaio era piena di filoni di pane. Vabbè, apprezziamo il parallelo. Meteo. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. A 7:41 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Sara Monaci, due elementi. Il primo, perché parliamo solo della Popolare Etruria e nulla si sa di Banca Marche, che tra l'altro come volume è anche più grossa dell'Etruria, piuttosto che di Popolare di Ferrara o di Chieti. E il secondo, se questo caso farà scuola, mi riferisco all'aver aperto un'indagine anche e soprattutto per quello che riguarda la liquidazione dell'ex direttore generale, se non farà scuola. E a me viene subito in mente la Popolare di Vicenza, dove proprio due settimane fa abbiamo saputo che il consiglio di amministrazione attuale ha elargito 16.700.000 euro di bonus, premi, indennità agli ex manager, tra cui Zonin, che ha preso 1.000.000, con un aumento del 9%, e con una banca che praticamente è dovuta, è fallita e ha dovuto trasformarsi in SPA e varare un aumento di capitale prima di essere comprata da qualcuno. Le altre banche popolari, e poi invece il caso, se farà caso in scuola. Allora, la prima domanda ha una risposta abbastanza semplice, evidentemente, perché nel CDA delle altre banche non c'era il padre di un ministro. Questa è la più semplice delle risposte, credo anche la più veritiera. È che però sarebbe sbagliato, lo dico, io non ho nessun interesse per difendere la Boschi, abbiamo criticato mille volte la figura di suo padre, però che un'indagine si apra perché in una banca c'è un ministro e in un'altra no. No, le altre banche hanno la stessa tipo di procedura, tant'è vero che proprio le banche Carichieti ha appunto adesso il procedimento di insolvenza, Banca Marche lo ha già avuto, su Banca Marche sono evidentemente uscite anche articoli non tanto rilevanti anche nelle nostre pagine, lo dico quanto Banca Etruria, però poco si sa, o quantomeno si sa un po' meno, perché evidentemente questa, il caso di Banca Etruria nasce sotto la stella di un potenziale conflitto di interessi. Però si stanno trattando a livello della procura, a livello degli inquirenti, allo stesso modo, stanno attraversando gli stessi iter, per cui si sta passando attraverso la dichiarazione di insolvenza e di conseguenza immagino le procure locali apriranno, se non hanno già aperto, le inchieste, i fascicoli per bancarotta fraudolenta. Quindi in questo caso, e mi aggancio subito alla seconda domanda, sì, non solo farà scuola, ma diciamo che diventa un passaggio obbligato per i procuratori guardare dove ci sono stati eventi distrattivi, quindi laddove i soldi non sono stati utilizzati, anche nel caso appunto di buonuscite o di anche premi produttività, perché in Banca Etruria si sta guardando anche quelli, premi produttività da 1 milione per tutto quanto il personale. Farà scuola sulle altre banche? Se nelle altre banche, il caso più eclatante è Popolare di Vicenza, che a mio avviso è il caso dal punto di vista proprio dei numeri più grave in questo momento in Italia. Guardate, lo dico a chi sta scrivendo, nessuno, stiamo parlando da 20 minuti di Popolare Etruria, ma proprio per obiettività giornalistica, non voglio lezioni da nessuno, si fa notare che ha tutta l'attenzione concentrata su Popolare Etruria quando delle 4 banche coinvolte in questa operazione disastrosa di fine novembre, la più grande era Banca Marche, e andate a vedere i numeri di Banca Marche e voglio vedere chi mi dice che Banca Marche ha fatto meno danni di Popolare Etruria. Ma di cosa stiamo parlando? Bianconi, come si chiama? Uno, e quindi anche la risposta di Sara Monaci molto schietta, beh, perché di mezzo c'è il papà del ministro Boschi, quindi quella, beh, ma perché diciamoci che poteva cadere, non dico un governo, ma avere un ministro in meno, abbiamo avuto un atto di fiducia, quindi quando un'inchiesta anche dei profili politici è evidente che se ne parla di più per il semplice fatto che c'era in ballo l'equilibrio di un governo, quindi non è nemmeno così scandaloso dirlo. Ma io non devo giustificarmi di nulla, stiamo parlando anche delle altre banche, però ma ne abbiamo parlato anche delle altre banche. Il secondo aspetto sulla Popolare di Vicenza, cioè quello che tu ricordavi, dire che la Popolare di Vicenza ha creato un danno di gran lunga superiore a Popolare Etruria non vuol dire giustificare, diciamo, Popolare Etruria, vuol dire avere l'equilibrio per dire che il danno c'è stato grosso, c'è stato anche e soprattutto per la decisione, per il modo in cui Banca d'Italia e governo si sono mossi in questi anni e non hanno approfittato della finestra che c'era a livello europeo per usare il fondo di garanzia sui depositi bancari per rimborsare anche gli obbligazionisti. Sono arrivati all'ultimo a fine novembre e quello non si poteva più fare, per cui, ma come danno sul territorio i 5 miliardi di risparmi bruciati da Popolare di Vicenza, a cui si sommano i 5 bruciati da Veneto Banca, sono una cifra di gran lunga superiore a quelli da Popolare Etruria come danno è reale, perché quei soldi non li vedranno più. E siccome è di 2 settimane fa il CDA della Vicenza, in cui Iorio, che non ha colpe, ma insomma, però hanno accettato per le clausole previste, io voglio capire se poi le clausole non si possono mai rivedere, di aumentare del 9% gli emolumenti, diciamo, bonus e quant'altro, a chi la banca l'ha fatta fallire, a partire da Zonin, è importante capire anche questo cosa insegna, che strada traccia, diciamo, per le altre procure, Sara. Allora, al momento nella Popolare di Vicenza non c'è un'indagine per truffa, di conseguenza ancora non si può valutare tecnicamente, questo è il profilo tecnico penale, al momento si sta parlando di ostacolo alla vigilanza e di aggiotaggio, quindi evidentemente non si può andare dentro nel merito degli emolumenti. Se però evidentemente si allargherà il profilo delle accuse e si dovesse andare anche su ipotesi più gravi di truffa, appropriazione indebita, io ritengo che anche gli emolumenti potrebbero andare sotto la lente degli inquirenti. Ricordo la differenza fondamentale che Banca Etruria e le altre 3 banche, tra cui Banca Marche, sono banche per cui è stata dichiarata l'insolvenza, quindi banche tecnicamente fallite, per cui c'è un procedimento penale, sì, di bancarotta fraudolenta. Per Popolare di Vicenza non siamo a fallimento, tant'è che appunto Iorio nel caso Vicenza ha chiesto aumento di capitale proprio per salvarla e Fusione SPA, non è, altrimenti quella è la linea. Però del, io del non nuovo, lo escludo quello che del tu nuovo dici. CDA è di dire altrimenti dovremmo dichiarare l'insolvenza, cosa che in queste quattro banche invece è già stata dichiarata. Detto questo, secondo me un po' è certo. un caso diciamo di scuola diventerà questa richiesta di, giustamente mi fanno notare che Bianconi ha già avuto sequestri preventivi per milioni di euro, sì, infatti non stiamo dicendo nulla di non era Bianconi il caso, era la Popolare di Vicenza, questo assurdo affronto. Grazie Sara Monaci, traffico, e poi invece andiamo a una fusione di banche che nulla c'entra con la magistratura e vorrei che non c'entrasse mai, ci mancherebbe, lì tutto sarà bloccato con la lettera della Banca Centrale Europea, il mercato però torna a scommetterci, chiaramente mi riferisco a Popolare di Milano e Banco Popolare, dopo il traffico. Focus Economia. Sì, 17:50 minuti, troppo schierato stasera Barisoni, voto 4, vabbè, prendo anche i voti, non c'è problema. Posso sapere però schierato su cosa? Nel senso che abbiamo fatto mezz'ora sulla Popolare Etruria e citando anche la Popolare di Vicenza, schierato su cosa? Immagino nel difendere, non si capisce bene come, il papà della Boschi? Non so, chiedo. Vabbè. Banco Popolare, Popolare di Milano, no, oggi non ho voglia di polemiche. Popolare di Milano, allora si è riattivato il mercato, devo dire che nel fine settimana il ministro Padoan ha detto insomma è una bella fusione, un bel progetto, nascerà una banca più grande, più forte, i manager sono determinati a fare questa fusione, per cui insomma poi Saviotti, numero uno del Banco Popolare, ha detto mi auguro una fioritura a breve, ed eccola qua la notizia, così Marco Ferrando lo aggiorno in diretta, appena uscita un flash d'agenzia, il Banco Popolare sarebbe pronto a un aumento di capitale tra i 500 milioni e il miliardo di euro prima di procedere alla fusione con BPM. La proposta più rilevante di quelle mandate come risposta a Bruxelles, alla Banca Centrale Europea a Francoforte. Ora si attende una controrisposta. Beh, questo cambia tutto lo scenario, nel senso che se il Banco Popolare è disposto a fare un aumento di capitale, forse buona parte dei rilievi di Bruxelles, che ricordo, riguardavano il rapporto tra le sofferenze, quindi non performing loans, i crediti inesigibili e il patrimonio, e riguardavano, anche se nessuno l'ha mai detto, soprattutto il Banco Popolare, perché ne ha di più di sofferenze rispetto al patrimonio. Beh, a questo punto te credo che il mercato oggi ci ha scommesso, Marco. Ma sì, negli ultimi giorni effettivamente ha ripreso vita una trattativa che ormai sembrava destinata a fallire dopo sotto Natale era appunto sembrato che il matrimonio fosse maturo, poi si è perso per strada tra corrispondenze con la BCE, visite dei manager a Francoforte, sembrava che si fosse persa la voglia. Invece venerdì, lo dicevi, c'è stato l'intervento del governo su più piani, per cui politicamente ha dato una spinta forte, un endorsement fortissimo, ma al tempo stesso pare aver anche lanciato un messaggio chiaro ai sindacati, che sono molto forti soprattutto in BPM, ma anche ha dato un messaggio chiaro alle banche, per cui di fatto ne va della bontà della riforma, diciamo così, del governo Renzi sulle popolari, per cui insomma vedete di farla. E questo, in questa spinta evidentemente si sono superati alcuni tabù, tra cui quello dell'aumento di capitale. Noi l'abbiamo scritto nel fine settimana, sabato c'è stata l'assemblea del Banco Popolare, durante la quale Saviotti, amministratore delegato del banco, effettivamente ha cambiato posizione sull'aumento, perché ha detto non lo escludo al 100%. Ora noi dobbiamo dire che sono tante modalità con cui uno può fare l'aumento, per cui un aumento... Beh, diciamo una cosa, adesso io non sono... però dico... Un aumento di capitale che preluda a una fusione, crea un gruppo che tutti ritengono essere di questi matrimoni, quello che potrebbe durare di più, con maggior dote e quant'altro, quello che ha più senso, unisce sostanzialmente Milano con Verona, la famosa asse della A4, come la chiamano alcuni. Uno potrebbe anche, cioè, avrebbe meno problemi. Altri casi, lo dico con massimo rispetto, è se il Monte dei Paschi dovesse chiedere un aumento di capitale, ma anche qui non facciamo le mezze vergini, che oggi è il refrain della puntata. C'è banca e banca. Sì, diciamo che anzitutto un aumento di dimensioni, se vogliamo, contenute, nel senso che la cifra di per sé è grossa, evidentemente, però non dimentichiamo che il Monte ha chiesto 5 miliardi nello spazio di 12 mesi. Qui parliamo di una manovra tra mezzo miliardo e un miliardo che potrebbe autorizzare un'operazione che sembra interessante dal punto di vista industriale, per cui, come dicevi, può essere uno sforzo di cui vale la pena se finalizzato a un'operazione interessante dal punto di vista industriale e finanziario. Come dicevi, c'è un tema di capitale, questo evidentemente è il modo per risolvere. Però insomma, noi abbiamo preparato l'approfondimento chiaramente non sapendo che sarebbe arrivata la conferma, e si capisce tutto. Se il Banco Popolare fra i 500 milioni e un miliardo, ripeto, in quel caso potrebbe anche trovarli senza un costo eccessivo, sì, un bagno di sangue eccessivo. Il mercato ha dimostrato di guardare con interesse a questa operazione, per cui proprio quel mercato, i fondi, gli istituzionali potrebbe effettivamente avere banca più solida, avere interesse. Può anche non essere un bagno di sangue. Dunque, a chi ci dice, lei ha criticato la Banca d'Italia, ma anche voi non vi siete mai accorti di nulla, altri dicono, beh, lei però intervistava Zonin. Allora, mettiamoci il cuore in pace. A, i giornalisti non fanno gli ispettori della Banca d'Italia, non fanno la Consob, non fanno altro. B, noi abbiamo intervistato Zonin come presidente della Zonin Vinicola, saremmo al Vinitaly anche il 9, e faccio notare che, diciamo, era considerato un banchiere da tutti. Ma se le cose non le ha viste la Banca d'Italia ed è dovuta intervenire la Banca Centrale Europea, io capisco la polemica, ma cosa volete che veda un giornalista che non ha neanche gli strumenti ispettivi che ha la Banca d'Italia? Abbiate pazienza, su. Ah, 349-238-6666 per sms, whatsapp, grazie Marco Ferrando, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso non più di banche ma di borsa, ciò che resta, perché oggi la giornata è stata obiettivamente dominata prima che uscisse ufficialmente la notizia che il Banco Popolare è disponibile a fare un aumento di capitale tra mezzo miliardo e un miliardo di euro. Oggi ha guadagnato 5,92%, di solito i titoli perdono quando c'è nell'aria un aumento di capitale, ma ripeto, il ragionamento che fa il mercato, chiedo conferma comunque a Radio Cori di Sole 24 Ore, nella figura oggi di Paolo Paronetto. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Come ciao, Marco Ferrando. Insomma, se l'operazione piace, è possibile. Si va a premiare il fatto che l'operazione si potrà fare più che penalizzare il fatto che si farà con un aumento di capitale per il Banco Popolare. Banca Popolare di Milano più 3,40%, Monte dei Paschi più 4%. Le banche, poi andiamo sugli altri titoli. Sì, esattamente, proprio come dicevi tu, per il Banco Popolare il mercato apprezza la prospettiva che la fusione alla fine si faccia, anche perché, anche secondo le stime degli analisti, il banco sarebbe tra i due istituti quello che avrebbe più da beneficiare da una simile aggregazione, anche perché appunto è quella con più problemi sul fronte soprattutto dei crediti deteriorati, e quindi questo passa avanti rispetto anche a eventuali timori su una necessità di un rafforzamento patrimoniale. Ecco, il Monte dei Paschi ha girato, o sbaglio? Il Monte dei Paschi ha accelerato alla fine, ma sempre è stato positivo, ha accelerato sul finale, e in questo caso anche qui il mercato si interroga soprattutto sulle parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha parlato di un 2016 come anno in cui saranno risolti la situazione del sistema bancario italiano, e quindi soprattutto rilanciando indiscrezioni delle ultime settimane si è tornato cominciato a parlare di un possibile intervento pubblico, magari attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, per mettere in sicurezza MPS. Si tratta ovviamente solo di speculazione, ma in una giornata positiva per tutto il settore è bastata a spingere il titolo in rialzo del 3,95%. Senti, bene anche Exor, più 3,80%, mentre Fiat è al palo, anzi adesso vi do anche l'ultimo dato, obiettivamente ha perso lo 0,40%. Sì, Exor continua a beneficiare, come già venerdì, dell'annuncio della chiusura dell'acquisizione di Partner Re, che di fatto chiude questo dossier che è stato un po', ricorderemo, complicata l'acquisizione della società americana. Inoltre beneficia, e ne beneficiava anche Fiat Chrysler di mattinata, ma poi il titolo, come dicevi giustamente tu, è girato in rosso, della correzione al rialzo del rating proprio di Fiat Chrysler da parte di Standard & Poor's, e quindi ovviamente migliora le prospettive dal punto di vista del debito della società, e quindi ne beneficia anche la controllante Exor. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, dicevamo, oltre a bancari e Fiat, di Telecom parleremo tra un attimo, quindi abbiate pazienza, più 3,1%, UbiBanca più 2,1%, UniCredit più 1,30%, Poste Italiane più 1,20%, Intesa più 1%, come A2A, l'indice, avete ragione, non li ho detti, più 0,46 Milano, che è l'unica positiva tra le principali borse. Parigi perde lo 0,80, Francoforte invariata, Londra invariata e l'America invariata anch'essa, euro quota 1,12. Chiudiamo col fronte opposto invece, debole Eni, ma più che Eni Saipem, meno 3,40%, e Mediaset, visto che comunque in qualche modo ne parleremo, poi ha recuperato però, Paolo. Sì, meno 0,80. È stata sì veramente una seduta molto volatile, partita in rialzo del 2%, poi è passata a perdere oltre il 2% e ha chiuso a meno 0,8%. Questa mattina le indiscrezioni su un possibile accordo a tutto campo con Vivendi per la creazione di un polo comune, che si parlava, un quotidiano ha parlato di scambio azionario tra le società, quindi un'alleanza societaria proprio tra i due gruppi. È poi intervenuto Silvio Berlusconi a smentire questa possibilità e a confermare che tra i due gruppi ci sono contatti, ma è sul fronte dei contenuti, non di progetti comuni, ma non sul fronte proprio societario, e quindi la speculazione e si è un po' spenta. Saipem invece ha chiuso in calo del 3,40% e ha penalizzata dal calo del petrolio, che della verità adesso è passato in positivo, ma questa mattina accusava ribassi che hanno trascinato fin dall'avvio in calo tutto il settore energetico europeo, che ha fatto segnare la peggiore prestazione di giornata a livello di sottoindice settoriale. Migliori e peggiori: Softec meno 7%, Invest meno 4,50%, migliori Gruppo Waste Italia più 11%, Sintesi più 9,80%, e appunto il Banco Popolare più 5,90%. Dicevamo di Mediaset, uno dice: ma cosa c'entrerà Mediaset con la vicina Telecom Italia? No, iniziamo a parlarne e partiamo proprio dalla dichiarazione che ha reso oggi Silvio Berlusconi, dicendo: no, con Bolloré, che è il controllore del gruppo francese Vivendi, che a sua volta è il primo azionista di Telecom Italia, siccome è girata anche la voce che Vivendi fosse interessata ad alcuni asset di Mediaset a partire dalla TV Premium, dai canali Premium, Berlusconi ha detto no, ci può essere un interesse, una collaborazione, ma no interesse a cedere qualcosa. Il gruppo Vivendi è molto interessato all'Italia, io sono amico del signor Bolloré da diversi anni e manifesta un interesse su alcune cose che noi facciamo in Italia, non assolutamente Mediaset, ma per esempio sulla nostra capacità di fare prodotti per la televisione, prodotti per tutte le televisioni, format televisivi, programmi televisivi, e anche per quella attività di fornitura al pubblico di un portafoglio di film molto vasto e anche di altri spettacoli. Vivendi lo fa già in Francia, ha una visione per il futuro europea, e quindi è possibile che si trovino delle possibilità appunto di collaborazione. Allora, nel ringraziare Antonella Olivieri che ci ha raggiunto in studio, buonasera Antonella. Buonasera. Sono 24 ore. Partiamo dalla parte, diciamo, marginale rispetto alla notizia, Mediaset. Oddio, posso dirla tutta, per essere una smentita, è una smentita che apre molte possibilità, perché dice no, non sono interessati a Mediaset, sono interessati però a un insieme di cose che facciamo, di produzioni televisive. Non è che abbia detto no, guardate, noi con Bollorei possiamo al massimo collaborare, ma non cederemo niente. Cioè, questa parola non l'ho sentita. Dice, sono interessati che noi sappiamo fare dei prodotti televisivi. Non dico che sia quasi una conferma, però insomma, che questo interesse ci sia viene straconfermato, Antonella. Certo, se parliamo di collaborazione bisogna vedere in che termini, cioè di certo non è una collaborazione commerciale, cioè che Mediaset Premium stesse cercando dei partner industriali, si sa, c'è già dentro Telefonica e anche Vivendi era un interlocutore da molti mesi. E in più, discorso di collaborazione, credo che si sia esaminata anche l'ipotesi di uno scambio azionario tra Mediaset e Vivendi, chiamiamolo simbolico, probabilmente non a livello di acquisizione, ma qualche cosa di partecipazione incrociata per cementare l'alleanza, sì. Oh, e questi sono, diciamo, i cotè, cioè gli aspetti marginali, non perché contino poco, ma perché sono, diciamo, in questo caso ipotesi. Il dato di fatto è che Patuano si è dimesso, la voce circolava da giorni interi, è arrivata nel fine settimana la conferma. Poco fa c'è un'agenzia di qualche minuto fa che sottolinea come l'amministratore delegato di Telecom Marco Patuano è stato convocato in Consob, è previsto per mercoledì l'incontro, la commissione vuole vederci chiaro sulla cessione in corso della quota Inuit, le torri, uh-huh, e sulle vicende che hanno portato alla sua uscita dal gruppo. Questo, adesso, la Consob che, senza offese, ma non è mai così veloce, soprattutto nei casi bancari, accusata di essere lenta, qua si è mossa a tre ore dall'ufficializzazione delle dimissioni di Patuano. Penso che si possa muovere sulla turbativa di mercato, non capisco cos'altro potrebbe muoversi, Antonella, però dimmi se hai già un'ipotesi. Ma ne so, perché ho visto anche dalle agenzie che i piccoli azionisti che sono anche dipendenti dall'associazione Asati, in intervento della Consob l'ha sollecitato, ho detto questo, cioè voglio dire, è come dire, è diritto dell'azionista di riferimento, cioè confermare o non confermare la fiducia dell'amministratore delegato. Di sicuro l'amministratore delegato, cioè Patuano, ex, non si è dimesso proprio molto spontaneamente. Ah no. Allora, e dopo il traffico arriviamo a questo aspetto. Al 349-238-6666, come sempre, i vostri sms e WhatsApp. Insomma, diciamola tutta, io semplifico, devo farlo. Patuano si è dimesso, o è stato fatto dimettere, perché era contrario a una maggior presenza, o comunque era ritenuto non sinergico, non strutturale, alla maggiore presenza e al ruolo dei francesi. Da quello che abbiamo letto come discrezioni, questa è una richiesta che è arrivata da Bolloré, quindi Vivendi, che è il primo azionista di Telecom Italia, il gruppo Vivendi, con il 24,9%, vuol dire che se va al 25% deve offrire l'OPA, fa scattare l'OPA a tutti, e anche con l'ampio accordo, diciamo così, di Alberto Nagel, che è il numero uno di Mediobanca. Mediobanca è il secondo azionista di Telecom Italia al 7,9%, è il secondo azionista nel rapporto con Bolloré, ho fatto confusione io, cioè Bolloré ha il 14,5% di Vivendi e anche il 7,9% di Telecom, di Mediobanca. Ecco perché uno dice l'operazione è stata in qualche modo ben vista da Alberto Nagel. Vorrei capire però che cosa non ha funzionato, perché detta così sembra, come dicevi tu, anche il tema classico: un azionista non trova più una sinergia, una sintonia con il suo amministratore delegato, ne chiede un altro. Il problema è qual è la sintonia mancante, perché sullo sfondo, ed è il messaggio che arriva più frequentemente, ecco che i francesi si stanno pigliando Telecom con il beneplacito del governo, non contento di come Telecom poco l'aveva seguita sull'operazione Metro Web e digitalizzazione del paese. Vorrei capire cosa c'è di vero dopo il traffico. Focus Economia. Allora, arriveremo poi al ruolo anche del governo, perché ripeto, l'abbiamo detto all'inizio del programma, è inutile girarci attorno, ci sono settori più strategici di altri: l'energia, la difesa, quindi Eni, Finmeccanica, e anche le telecomunicazioni, fermo restando che il governo non ha, a differenza di Finmeccanica e di Eni, non ha una partecipazione né tantomeno un controllo su Telecom Italia. E lì ringrazio per averci aggiunto in collegamento anche il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Alessandro, buonasera. Grazie, buonasera a te. Volevo concludere con Antonella, però il tema, diciamo, Telecom governance, come dicono quelli che hanno studiato. Cioè, che studiato? Insomma, le dimissioni gli sono state chieste, ma dove è nato il contrasto con Bolloré, con i francesi? Ma io credo che non si tratti di, proprio di un contrasto. Allora, c'è da capire una cosa, diciamo, come manager Patuano è un manager che ha fatto tutta carriera interna, arrivato dall'università, certo, in Telecom, quindi di fatto non è un uomo di nessuno se non della Z. Certo, è diventato amministratore delegato con Telco. E adesso che è cambiato l'azionariato, perché l'azionista di riferimento, e non c'è nessun dubbio, è Vivendi ha una sua filosofia, che è quella di portare avanti un discorso di convergenza con i contenuti. E se vediamo le scelte che sono state fatte invece dalla Telecom, ha sempre fatto una scelta di non legarsi a nessun fornitore particolare di contenuti, anzi hanno aperto la piattaforma a tutti. E il punto è che evidentemente i francesi sono abituati ad avere una maggiore sintonia tra il management e l'azionista. Allora, mettiamola così, Alessandro Praterotti. Si trattasse di un altro gruppo, col massimo rispetto, perché alcuni mi parlano di Parmalat, Lactalis. Okay, qui però parliamo di telecomunicazioni, non devo ricordare io cosa sono le telecomunicazioni in un paese, a partire, diciamo, dal rapporto che c'è con i sistemi di sicurezza interni di un paese. La cosa che mi impressiona, lo dico senza polemica, è che mentre c'era stata tutta una dialettica tra governo e Telecom ai tempi dell'operazione Metro Web, traduco, il governo voleva utilizzare la rete, voleva la partecipazione attiva di Telecom per la digitalizzazione del paese, Telecom diceva no, la banda larga è troppo, noi abbiamo un altro progetto, Metro Web. Adesso c'è un silenzio assordante dal punto di vista del governo. Non c'è un silenzio assordante da parte del governo, è anche logico, il governo non ha titolarità a parlare di assetti azionari in questo. Un conto è dire qual è l'interesse nazionale sulle reti di telecomunicazioni, ed è legittimo, è naturalmente un fattore di competitività per un paese la rete di telecomunicazioni, ma oggettivamente parlare di assetto azionario sarebbe anche grave da parte del governo, che rispettosamente in questo senso parla solo di aspetti industriali, come è stato per Metroweb, e non di aspetti societari. Quindi entriamo in gioco, questa è un'impresa privata, ricordiamolo, per quanto copra un servizio che già da ex monopolista era strategico per il paese. Ricordiamo anche inoltre un'altra cosa, che non è più la situazione di 20 anni fa in Italia, dove c'era solo la rete di Telecom Italia. Oggi, oltre alla rete di Telecom Italia, c'è la rete di Vodafone, c'è la ex rete di Infostrada. E quando parliamo di rete, dobbiamo ricordarlo, ci sono due reti. C'è la rete nazionale di trasporto e poi quella che, diciamo così, l'ultimo miglio, il famoso, quello che arriva dal cassonetto, dall'armadietto alle case, come dicono, no? Anche dal cassonetto alle case. Anche dal cassonetto in certi casi, perché la qualità del servizio non sempre è eccellente, quindi parliamo di cassonetto. Ma detto questo, Sebastiano, io credo che l'analisi di Antonella sia quella giusta in questo senso. Posso darvi un aspetto in più? Ricordiamo questo, Patuano le dimissioni le aveva concordate dopo l'ultimo viaggio a Parigi qualche mese fa, quello che avevano concordato dopo quell'incontro è che lui avrebbe firmato il bilancio, come è avvenuto, bilancio 2015 stiamo parlando ovviamente, per poi rassegnare le dimissioni. Non c'è stata rottura, ma oggettivamente o i francesi fanno l'OPA e conquistano Telecom Italia o danno un segnale di presenza, come nominando l'amministratore delegato, il chief executive è in questo senso l'espressione della maggioranza. Il presidente è diverso, perché il presidente, ricordiamolo, ovvero Recchi, Giuseppe Recchi, è stato nominato nel momento in cui c'è stata, diciamo così, l'azionista di riferimento che era rimasto unico era Mediobanca. Mediobanca ha voluto Recchi e infatti non a caso oggi Recchi prende le deleghe ad interim, certo, finché non ci sarà il nuovo amministratore delegato. Ecco, però, ma questo pone un problema. Dimmi. Quale sarà la governance della prossima Telecom Italia? E questo è un aspetto importante, perché molte delle deleghe che ha dato Recchi gli erano state assegnate all'origine e non anche c'è un peso di un presidente, quindi bisogna vedere come viene ridefinito. Un ultimo aspetto che non bisogna ignorare: a Palazzo Chigi c'è un grande nervosismo in questo momento, perché la scelta del prossimo amministratore delegato segnerà i rapporti fra Telecom e il governo anche. È quello. Allora, Qual è il profilo? Sì, ricordiamo un'altra cosa, questo perché l'ha detto lo stesso governo, quando Bolloré cominciò a salire con tramite Vivendi in Telecom Italia, loro, fu lo stesso Bolloré in un incontro con Renzi, a garantire ed assicurare al governo italiano che non avrebbe fatto il takeover di Telecom Italia, l'OPA, conquistare la società. Allora, adesso le indicazioni che emergono, soprattutto da alcuni dei nomi che sono circolati in queste ultime 48 ore, fanno pensare a una rottura in questo senso rapporti, di quel patto e di quell'accordo. Mm. E allora questo spiega anche in questo senso il la silenzio. Tua domanda, perché c'è il silenzio? Certo. Perché stanno veramente alla finestra a guardare quali saranno le scelte finali. E questo sarà determinante per quale motivo? Perché a seconda dell'amministratore delegato che verrà si dovrà avviare il dialogo non soltanto sulla questione della rete e definire qual è la rete che interessa poi a Telecom e qual è la rete che interessa al governo, ma soprattutto quali saranno poi le operazioni di più vasto riassetto delle telecomunicazioni italiane. E questa è una grande partita che indubbiamente va seguita, però ripeto, sarebbe molto più bello e più trasparente, questo nell'interesse del paese, nell'interesse del mercato, che chi vuole delle società se le compra, non che entra con, come al solito, con delle quote 10-14%. Cioè tu vuoi che Bolloré faccia l'OPA? Fa l'OPA, o si tratta di definire perché stai qua. Certo. Ecco. Beh, diciamo che allora l'OPA, secondo me Bolloré, ma adesso non sono io Bolloré e siamo anche in chiusura del programma, gli costerebbe un po' e non la vuole fare. Però capisco benissimo il tuo ragionamento, perché anche controllare di fatto, perché questo sta avvenendo, perché secondo socio JP Morgan che ha il 9,9, poi c'è Niel, Javier Niel che è un altro francese, Orange che ha il 15% come secondo in realtà. Però dico, anche controllare un gruppo come Telecom con 24,9%, ma di fatto essere come se avessi l'80%, allora fai l'OPA e lì vediamo cosa succede, perché allora lì poi anche il governo qualcosa probabilmente avrebbe da ridire. Fondamentale quello che tu ricordavi, cioè capire se poi il nuovo numero uno sarà, diciamo, manterrà questo accordo fatto con il governo italiano oppure segnerà definitivamente una rottura, per cui Vivendi vuole, pur senza controllarla realmente, operare da sola con Telecom Italia, oppure se mantiene l'accordo, con l'accordo tacito con il governo italiano. Grazie anche a Alessandro Platerotti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.